nessun ferito e nessun danno serio, non c'è collegamento fra le varie scosse, dicono gli esperti. Monti in Senato: non giova all'immagine dell'Italia esportare in Europa polemiche di casa nostra. Napolitano: lavorare non deve essere un privilegio. Continuano i blocchi dei tir, ma in tono minore. Cominciano a scarseggiare benzina e beni nei supermercati, ferito un manifestante in Piemonte. Piazza Tahrir, un anno dopo la protesta torna in piazza, in testa al corteo El Baradei. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano le scosse di terremoto che si susseguono dalla notte su tutto il nord Italia. Ci aggiorna in diretta Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno Piera. Una forte scossa di terremoto poco dopo le 9 del mattino che ha interessato, come dicevi, il nord Italia. L'epicentro a Reggio Emilia, una scossa di magnitudo 4.9 che ha avuto epicentro nella pianura padana emiliana in provincia di Reggio Emilia, a una profondità di 33,2 chilometri. Nonostante questa forza, sembra che la situazione sia tutta sotto controllo, quindi non ci sono danni, ma abbiamo in diretta il capo della protezione civile della regione Emilia-Romagna. Buongiorno dottore Gidi, Demetrio Gidi, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, intanto le chiedo di aggiornarci su qual è la situazione in provincia di Reggio. La situazione la confermiamo come positiva dal punto di vista dell'assenza di conseguenze significative fino dalle primissime ore di questa mattina, quindi dopo le 9, grazie all'ottimo coordinamento con prefetture, province, comuni, vigili del fuoco, sono state fatte verifiche che sono tuttora in corso, specialmente negli edifici pubblici ma anche negli edifici storici, quindi abbiamo confermato la precauzione di tenere chiuse le scuole anche per seguire la situazione di ansietà e di panico che si era diffusa per una scossa che è di intensità con magnitudo rilevante, però la profondità 33 chilometri ha consentito di spalmare su un'ampia fetta di territorio che abbiamo calcolato con un raggio di circa 110-120 chilometri, quindi da Milano a Bologna, l'energia accumulata, e devo dire che anche la buona qualità delle costruzioni dei nostri territori, non solo di Reggio Emilia ma anche di Parma, perché l'epicentro è al confine tra le due province, fino adesso ha dato risultati tranquillizzanti dal punto di vista delle ricadute sulle strutture sismiche, e ancora una volta si dimostra che nei nostri territori, se si procede a una buona qualità delle costruzioni, terremoti di questo tipo non danno conseguenze gravi per la pubblica incolumità. E certo. La ringrazio moltissimo, Demetrio Egidi, capo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna. In effetti la scossa è stata molto forte, i danni appunto non ci sono stati, e si è sentita verso le 9:10, come diceva appunto anche il nostro ospite, in tutta la pianura padana, dal Veneto alla Lombardia, Trentino, Alto Adige, una scossa che è durata 10 secondi e che è stata avvertita nitidamente anche a Milano, dove sono state fatte evacuare le scuole. Non risulta invece un collegamento, non ci sarebbero collegamenti con la scossa di cui avevamo parlato, avvenuta a Verona, una scossa che era stata segnalata poco dopo l'una della notte, una forte scossa di magnitudo 4.2 a cui erano seguite altre piccole scosse di assestamento. Ecco, non ci sono collegamenti con la scossa di Reggio Emilia, né si può parlare di sciame sismico, come ha confermato Massimiliano Stucchi, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al microfono di Katia Caramelli. C'è stato un terremoto anche stanotte nel veronese, un po' più piccolo di quello di stamattina, e poi un terremoto nella parmense questa mattina di magnitudo 4.9, cioè un terremoto di energia media rispetto all'Italia. Ovviamente si è sentito in una porzione importante dell'Italia settentrionale, ma anche questo è abbastanza normale. Non è uno sciame, perché uno sciame è una serie di eventi che dura per qualche mese. Ciascun evento un po' grandino come questo ha delle repliche. Repliche sono delle scosse più o meno localizzate nello stesso punto, che hanno una magnitudo un po' inferiore. E questo è normale, ma non fa uno sciame. Uno sciame se ne parla dopo qualche settimana, mesi. Per sapere che cosa succede non lo sappiamo, né se è uno sciame né se no. Nel senso che non c'è un modello evolutivo consolidato per cui noi possiamo dire, ah, ecco, sono arrivati qui, quindi ci sarà un terremoto forte. No, tutta l'Italia è sismica, cioè in tutta l'Italia si possono generare dei terremoti, più o meno forti. In questa zona questo terremoto non sorprende, cioè possono generarsi terremoti anche più forti di questo nella zona dell'epicentro. Noi ringraziamo Cristina Carpinelli per averci aggiornato su queste scosse di terremoto che si stanno susseguendo sul nord Italia. Lo ricordiamo, pochissimi danni, in realtà solo tanta paura, grazie al cielo. E passiamo alle parole di Monti al Senato sulla politica europea, in diretta con noi da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un intervento di oltre mezz'ora, quello del Presidente del Consiglio al Senato, dove si discute e si attende il voto sulla mozione comune elaborata dai partiti di maggioranza di appoggio allo sforzo in Europa dell'esecutivo. Il caso italiano, ha detto il Premier, è già preso ad esempio significativo di una politica economica forte. Quanto a ciò che sta succedendo a Bruxelles in risposta alla crisi, per Monti ci sono dei passi in avanti rispetto a posizioni che sembravano cristallizzate. Quindi le considerazioni del Presidente del Consiglio rispetto alla crisi internazionale. Sentiamo. L'impressione che ho potuto trarre da questi incontri e dalle vicende degli ultimi giorni è quella di un quadro in evoluzione, in cui i contorni di una possibile via d'uscita dalla grave crisi che ha colpito l'Europa cominciano a prendere forma. Alcuni tasselli del mosaico lentamente cominciano ad avvicinarsi al loro posto. Circa gli strumenti di salvaguardia finanziaria europea, Monti spiega, bisogna dotare il Fondo Europeo di risorse adeguate e di una governance umana e non sovraumana e non circondata da vincoli e cavilli. Infine il Presidente del Consiglio ha ringraziato il Parlamento per l'aiuto che dà al Governo, quindi un auspicio che non vengano esportate in Europa polemiche tutte italiane. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. E di politica economica del nostro Paese ha parlato questa mattina anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla 17ª edizione del Premio Leonardo, in diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, ricerca e innovazione come chiave di volta per essere competitivi a livello mondiale. Il capo dello Stato ha sottolineato questi due aspetti in occasione del premio Leonardo 2011 assegnato alle imprese italiane che hanno contribuito a consolidare l'immagine dell'Italia nel mondo. Poi un monito, il nostro paese non perda posizioni ma ne guadagni, e un augurio ai giovani affinché avere un lavoro non sia un privilegio. Alla cerimonia è intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Passera, che ha parlato di premi Leonardo come di straordinaria dimostrazione di quanto il nostro paese, quando investe in qualità, non è secondo a nessuno. Passerà poi rinnovato la speranza affinché la riforma delle liberalizzazioni convinca ciascuno ad accettare sacrifici in nome di un interesse generale che è la crescita economica del nostro paese, mentre il presidente della BCE Mario Draghi ha mandato un messaggio nel quale ha sollecitato ad andare avanti sulla strada delle riforme per uscire dalla stagnazione e per sventare i rischi di una pericolosa deriva. In conclusione, diciamo a chi è stato assegnato il premio Leonardo 2011, a Pietro Antinori, uno dei più importanti imprenditori del settore vinicolo italiano, un'azienda che ha attraversato oltre 600 anni di storia del nostro paese. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Prosegue intanto il peggioramento del mercato del lavoro italiano, con il tasso di disoccupazione che ha raggiunto l'8,6% a novembre, lo rileva il Centro Studi di Confindustria nella stima congiuntura flash di gennaio. L'attività industriale è calata dello 0,7% in dicembre e del 2,9% nel quarto trimestre. Appuntamento oggi con Telefisco, l'iniziativa del Sole 24 Ore dedicata alle novità fiscali. Stamattina l'intervento del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. L'evasione fiscale è una piaga che condiziona la vita economica e non solo di tutti i giorni del nostro paese, ha detto. Se l'Italia era sull'orlo del baratro dipende anche dai 120 miliardi di euro di evasione annuale. Sentiamo Befera. Semplificazione e lotta all'evasione vanno a braccetto, sono la stessa cosa. Se semplifichiamo il sistema rendiamo più difficile l'evasione e più facile scoprirla. Noi su questo spingeremo molto. Abbiamo due strumenti, uno è questo decreto, l'altro veicolo che abbiamo è la delega fiscale. Quindi direi che dovremo fare due passi, un primo passo di semplificazioni che hanno una loro autonomia e un secondo passo che è la revisione del sistema, quindi delega fiscale. A me piacerebbe arrivare, come dicevo qualche tempo fa, ad una dichiarazione redditi delle persone fisiche ovviamente, fatta da due paginette e non dalle 140 pagine che abbiamo oggi. Questo anche attraverso un disboscamento delle detrazioni. Torneremo su Telefisco in chiusura di questo GR24, intanto il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Almeno 1 miliardo di euro, a tanto ammontano le tasse non pagate dalla Chiesa. Il tema finora era avvolto da tabù, ma ora che da parte del cardinale Angelo Bagnasco c'è stata una scomunica ufficiale contro gli evasori fiscali, pare che il clima sia cambiato. In ballo ci sono soprattutto mancate imposte sugli immobili. Il mancato introito deciso dal governo Berlusconi nel 2005 crea un buco nelle casse dei comuni e in parte dello Stato, ma rischia anche di farci sanzionare dalla Commissione Europea, che considera gli sgravi alla Chiesa su ICI, IRES e IRAP una violazione della concorrenza. Nel mirino quei conventi e palazzi vaticani che sono diventati sedi di cliniche, scuole e alberghi, che incassano quindi parcelle e rette ma godono dell'esenzione IRES che non arriva nelle casse dello Stato. Basti pensare che solo a Roma il turismo religioso genera un fatturato di 5 miliardi l'anno con 40 milioni di presenze. Ma la partita più grossa ruota attorno all'esenzione ICI sull'immenso patrimonio immobiliare della Chiesa. Le stime riportano di 100.000 fabbricati per 8-9 miliardi di euro di valore. Il danno per il solo comune di Roma è di un mancato introito di circa 20 milioni di euro l'anno. Per la Chiesa sono poi previste anche esenzioni IVA sul gas metano e sulla fornitura dell'acqua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di passare agli esteri, una notizia che riguarda il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Bene, Di Pietro è stato colto da un malore alla Camera ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Naturalmente vi terremo aggiornati. Migliaia di persone stanno manifestando a Piazza Tahrir in Egitto per il primo anniversario della rivoluzione che ha portato alla deposizione del presidente Mubarak. Da Piazza Tahrir, Roberto Bongiorni, collega del Sole 24 Ore. Piazza Tahrir è di nuovo piena, gremita, centinaia di migliaia di persone. La situazione naturalmente è cambiata, però la piazza vuole dare un'idea di unità, ma vi sono ormai ampi divisioni tra i movimenti. Ci sono gli stand dei Fratelli Musulmani, che sono il movimento più forte, che ha vinto l'elezione praticamente con quasi il 50% dei voti, che stanno assicurando la sicurezza di tutta la piazza, ma vi sono anche i movimenti più laici, i movimenti anche salafiti. Insomma, la gente è ritornata e chiede comunque all'unisono le dimissioni del Consiglio dell'Esercito che gestisce la transizione il più presto. La gente è unita e continua a sostenere che se l'esercito non si dimetterà entro breve, loro torneranno ogni giorno in piazza Tahrir. Scosse di terremoto in Veneto ed Emilia-Romagna, ma la gente scende in strada in tutto il nord Italia. Nessun ferito, nessun danno serio, non c'è collegamento fra le varie scosse, dicono gli esperti. Monti in Senato, non giova all'immagine dell'Italia esportare in Europa, polemiche di casa nostra. Napolitano, lavorare non deve essere un privilegio. Piazza Tahrir, un anno dopo la protesta, torna in piazza, in testa al corteo El Baradei. E ripartiamo proprio dalla protesta dei TIR, che qualche disagio sta continuando a causarlo a chi deve spostarsi in auto, come abbiamo sentito anche poco fa dai colleghi di Strade in Diretta. Ci colleghiamo con Roma e con Andrea Viali. Sì, nonostante la linea dura annunciata ieri dal governo va avanti questa protesta, la protesta degli autotrasportatori con presidi e blocchi in tutta Italia, rimangono i disagi per la circolazione anche se limitati rispetto ai giorni scorsi, aumentano invece quelli legati ai mancati approvvigionamenti di merci e carburanti e si registrano anche altri episodi di minacce e aggressione ai danni di camionisti che si rifiutano di fermarsi ai blocchi. Uno di loro, in particolare un bresciano di 59 anni, è stato malmenato la notte scorsa all'uscita dell'A14 al casello di Termoli in Molise. Nel torinese invece un 38enne è stato ferito da un camion che cercava invece di a girare un presidio a Carmagnola. A Palermo infine il movimento dei forconi questa mattina ha portato in piazza migliaia di persone in attesa dell'incontro fra il presidente del Consiglio Monti e il governatore siciliano Lombardo, che porterà a Palazzo Chigi le richieste di camionisti, pescatori e contadini siciliani che stanno protestando da giorni. A te la linea. Grazie ad Andrea Viali, e c'è naturalmente qualcuno che se ne sta approfittando. La Guardia di Finanza infatti ha già denunciato nella Vellinese un benzinaio di Moschiano. Speculando sul blocco dei tir, hanno fatto sapere le Fiamme Gialle aveva indebitamente aumentato del 10% il prezzo dei carburanti nel suo impianto. Il colonnello Mario Imparato, Guardia di Finanza di Avellino. Il signore aveva dei prezzi diversi, sulla tabella esterna era 1,790, che è un prezzo normale, diciamo, per il gasolio. Invece il prezzo a cui veniva erogato e quindi comprato il carburante era 1,936. Volutamente l'ha fatto alla vicenda dei tir? Siccome c'era una volontà? Il distributore era ubicato in una zona, diciamo, era un po' isolato, quindi aveva un po' il monopolio della zona, diciamo così. E quindi, approfittando di questa circostanza, l'isolamento, la distanza rispetto agli altri distributori, le file che si cominciavano a fare in corrispondenza dei punti di distribuzione carburante, si è ritenuto che ci fosse sussistente il reato di truffa. Voi continuerete naturalmente a controllare? Certo, ma anche in relazione alle numerose telefonate che pervengono al 117. Avete avuto molte segnalazioni? Sì, tante, dall'altro ieri a ieri, diciamo, pomeriggio, una cinquantina. Una notizia, una brutta notizia battuta in questi minuti dalle agenzie. Una bimba di 10 mesi è morta in un asilo nido a Roma. La causa della morte, dai primi accertamenti, sarebbe un rigurgito. Naturalmente vi terremo aggiornati su questa brutta notizia. Vertice in corso intanto a Grosseto fra gli investigatori sul naufragio della Costa Concordia al Giglio. Le ultime notizie da Raffaella Calandra. Una domanda soprattutto pende sul vertice in corso a Grosseto, una domanda che traccerà la direzione futura delle indagini. Oltre a quelle del comandante e del suo vice, ci sono delle responsabilità anche della Costa Crociere nel naufragio della Concordia, compagnia che però compare insieme ai 4.228 passeggeri tra le parti offese dell'incidente probatorio fissato per il 3 marzo. 12 giorni dopo il naufragio è il procuratore generale di Firenze, Beniamino De Idda, che sta incontrando i PM a fissare due punti fermi. L'armatore è garante della sicurezza e quella nave lì non doveva proprio starci. Sentiamolo. La rotta non è prevista lì, quindi direi che era insolitamente vicino. L'avverbio insolitamente a sintetizzare ciò che De Idda ha già esplicitato nei giorni scorsi. Perché la Concordia si era avvicinata così tanto al Giglio? Perché l'aveva chiesto un manager, come dice a verbale e nelle intercettazioni ambientali, il comandante Schettino? E poi, se davvero l'armatore fu subito avvisato, come ha riferito anche il primo ufficiale, perché l'evacuazione avvenne solo 75 minuti dopo la collisione? Domande a cui pure le difese dei naufraghi puntano a dare risposta con proprie indagini, come ci anticipa l'avvocato Pietro Ilardi. Al di là delle responsabilità che sembrerebbero emergere in capo al comandante, noi crediamo che vi siano altre strade da esplorare. Siamo curiosi di capire qual è stato il comportamento di Costa Crociere, sia nella fattispecie, sia in quella cosiddetta prassi degli inchini. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. La questione cruciale dei nostri tempi è come mantenere vive le promesse, perché in gioco ci sono i valori americani. Così Barack Obama sferza il Congresso nel suo attesissimo discorso sullo Stato dell'Unione, durato poco più di un'ora. Voglio un'America più giusta, costruita per durare. Obama ha invitato tutta la nazione a fare squadra. Il successo di questa generazione, ha detto, è stato possibile perché le generazioni passate sentivano le loro responsabilità e guardavano al futuro del loro paese. Sapevano che il nostro stile di vita poteva durare solo condividendo le responsabilità. Obama ha parlato ad un'America dove l'economia offre a tutti le stesse possibilità, dove le regole siano uguali per tutti e soprattutto dove i ricchi paghino più tasse per investire di più in istruzione, sanità, ricerca. Queste dunque le parole del presidente americano Barack Obama, e sarà dedicata per intero al discorso dell'Unione la puntata di oggi di America 24 in onda, come sempre alle 13:45. Buonasera, Tom. Buonasera, ragazza mia. Come sei bella? Caterina, sei in ritardo. Avevo tanta paura di non arrivare in tempo. Era Capodanno quando l'hanno portato via, vero Caterina? Non voglio neanche pensare. Era un passaggio del film Lo sguardo di Ulisse del 1995, diretto da Theo Angelopoulos. Il regista greco è morto ieri sera investito da una moto di una guardia mentre attraversava la strada. L'incidente mortale è venuto in Attica, dove Angelopoulos stava girando. Il regista aveva 77 anni. Un suo ricordo nelle parole del critico cinematografico Maurizio Porro, al microfono di Adriana Fracchia. Una persona molto gradevole, molto simpatica, molto, fra virgolette, qualunque. Mentre il suo cinema naturalmente era tutto fuorché qualunque, è stato uno dei grandi autori proprio tipicamente europei, nati da tutto quel rivolgimento degli anni 60 e 70, e negli anni 70 in Italia un film come La Recita, nonostante la sua durata di quasi 4 ore, fu un vero fenomeno, un po' di culto insomma fra i cinefili. Tutti lo ricordano ora per i piani sequenza, cioè per quelle lunghe carrellate senza stacchi che a volte sembravano infinite, erano infinite ma non erano lunghe. Angelopoulos era un autore che non voleva emozioni, non voleva sentimentalismi, voleva raccontare le storie a modo suo con una preponderanza di uno stile. La Recita è stato appunto il film che l'ha lanciato, è il film a tutt'oggi il più noto, il più riverito, il più appunto di culto, come dicevo prima. Angelopoulos era una voce importante, anche se adesso non era più, come dire, di moda. Però è bello ricordarlo proprio come un uomo che è stato sempre fedele a una sua idea di cinema, non facile, non semplice, non popolare, ma però è una di quelle idee che resteranno nella storia del cinema. Esaurimento per l'attrice Demi Moore, che è stata ricoverata in una clinica di Los Angeles per accertamenti. Lo ha riferito il suo agente, spiegando che la causa del ricovero è uno stato di affaticamento e di stress, smentendo così le voci di un ricovero legato all'abuso di droghe. Demi Moore, 49 anni, è reduce dal divorzio con Ashton Kutcher. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.